Linee d'ombra di Matteo Caccia. In effetti, quando eravamo piccoli ne avevamo paura, no? Però adesso lo ricordi con affetto, insomma, no? Questo mazzone, diciamo, veramente molto un po' rude, un po' burbero, specialmente con i bambini. Peppino, accorgendosi dei nostri occhi che roteavano alla ricerca disperata di possibili vie di fuga, iniziò a dire: "Non abbiate paura, ragazzi, non vi faccio niente." Storie di ragazzi d'estate e di San Francisco come Gotham City, in una puntata che si intitola Piccoli supereroi. Guarda che mi ha mandato mio zio. Belli, vero? Bellissimi. Allora, questo si allunga la scala, quest'altra c'è anche il letto dentro. Questa è della polizia, si apre e c'è anche la sirena. Tutti te le ha regalate? Sì. Me lo regali se non ti piace? No, non posso, mio zio si arrabbia. Ma stai in America? No, non posso. Se me lo dai, ti do i giornalini di Tex. Già letti tutti. Se ti dico un segreto, me lo dai? Un segreto non vale una macchinetta. Questo sì, te lo giuro. Io te lo dico. Ma tu mi devi giurare su Dio, che non lo dice a nessuno, nemmeno al teschio. Sai quella casa dove siamo stati? Nel cortile c'è un buco segreto, tutto scavato. E dentro c'è un bambino. In una puntata che si intitola Piccoli supereroi, questo tratto preso da quel film splendido che era Io non ho paura, che era preso, era nato grazie al romanzo di Niccolò Ammaniti, campi di grano sterminati in una Basilicata meravigliosa, era stato girato là, grande grande sole, tantissimo sole e un buco scurissimo dove si nasconde qualcosa che fa veramente paura. In un periodo della nostra vita in cui essere degli eroi si avvicina moltissimo al non fare niente, allo stare a casa e a cercare di evitare che questo virus continui ad andare in giro, la puntata di oggi è dedicata e racconta proprio quella linea d'ombra sottilissima che differenzia l'essere un eroe dal non esserlo. E raccontiamo storie di ragazzini, raccontiamo storie di ragazzini e di un bambino straordinario che per un giorno a sua insaputa diventa un supereroe. È una storia davvero commovente e meravigliosa, è un po' una storia di una rinascita, e storie come queste in questo periodo aiutano a immaginare quando quel momento arriverà, quando la rinascita tornerà e tutti quanti torneremo a festeggiarla. La prima storia parla appunto di quando da ragazzini ci sentiamo dei supereroi, ci sentiamo come direbbe un'amica, sti gran fighi, e non lo siamo invece sti gran fighi, perché siamo dei ragazzini e cerchiamo di fare delle cose che ci fanno sentire un pochettino più grossi, più importanti, e per lo più sono delle stupidaggini e poi ne paghiamo le conseguenze. La seconda storia invece che vi dicevo è quella di questo ragazzino supereroe. Sono due storie davvero diverse, ma che stanno su quel confine lì, sulle storie di piccoli supereroi. Però noi continuiamo anche la nostra raccolta di diari dalla nostra nuova, speriamo, breve vita. Quindi se anche voi avete, come tutti immagino, dovuto modificare in parte la vostra quotidianità, o perché siete a casa con i bambini, o perché lavorate in un modo diverso da come lavoravate prima, o perché siete stati separati, è arrivata una delle pagine di diario, sono arrivate delle pagine di diario molto molto belle che vi racconteremo nei prossimi giorni, di due ragazzi che, come credo sia successo a più di una coppia, si sono dovuti separare perché una persona lavorava in una zona, l'altra lavora e vive in un'altra zona e quindi non si possono vedere, e ci stanno mandando il loro diario da remoto, il loro diario d'amore a distanza. Se avete voglia anche voi di partecipare con mezza pagina, non serve tanto, serve davvero poco, poche righe, 10 righe, 15 righe, in cui raccontate come sta andando la vostra nuova, breve, ripeto, speriamo, vita. Noi le raccogliamo e la raccontiamo molto molto volentieri, raccontiamo storie, quindi ci mettiamo a disposizione per farlo. Linee d'ombra @radio24.it, questo è l'indirizzo a cui mandare i vostri diari ed è l'indirizzo anche a cui mandare le vostre storie. Ovviamente continuiamo a raccontare storie che hanno a che fare con un piccolo confine da valicare, storie di vita che in qualche modo raccontino qualcosa di voi, possono arrivare da qualunque momento della vostra vita, dall'infanzia, dall'età adulta, possono parlare d'amore, possono parlare di lavoro, possono parlare di viaggi. L'importante è che attraverso quella storia abbiate scoperto qualcosa, che qualcosa vi abbia cambiato. Noi la prendiamo e la raccontiamo e cominciamo così con la prima storia di oggi, è la storia di Michele. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Abitavamo in un paesino in cima ad una collina dell'entroterra marchigiano. Qualche centinaio di anime, una chiesa, un bar, un paio di negozi e tanta campagna intorno. Non so come, quel giorno finimmo nel cortile della villa di Albertini. Durante le vacanze estive, la mattina dopo colazione, io e mio fratello più piccolo uscivamo sulla piazza dal portone delle case popolari dove abitavamo. E annusando l'aria ancora fresca, facevamo correre la fantasia alle promesse di un'altra fantastica giornata di giochi, di esplorazioni e di avventure. Ci guardavamo a destra e a sinistra, sapendo che a sinistra avremmo trovato il campo da calcio del prete, il boschetto e, ancora oltre, la montagnola e sotto il conventino, il cimitero e la grande campagna che sprofondava immensa fino al fosso di Ligeri per poi risalire verso alcuni paesini vicini. A destra invece si andava verso il piccolo centro storico, le case dei nostri amici, la pericolosa strada di Scarella sotto il radar militare, le mura e il torrione del vecchio castello in rovina, la gente di campagna. La villa di Albertini era a sinistra e quindi questo significa che quel giorno il profumo di avventura ci aveva portato verso la montagnola, mentre non ricordo in che modo la combriccola si radunasse. Fatto sta che durante la giornata si era formata la solita piccola brigata di bambini in cerca di guai. La villa di Albertini era un grande antico palazzo diroccato a forma di ferro di cavallo che sembrava atterrato da chissà dove, su un poggio affacciato verso l'immenso panorama che arrivava sino al mare. Ricordo che naturalmente era abitata da fantasmi e che una sera, col cuore in gola, mi ero unito ad una piccola compagnia di ragazzi e ragazze più grandi che avevano deciso di entrarci. Qualche burlone aveva infilato un preservativo nella maniglia del portone da cui entrammo e il capo della spedizione aveva ritratto la mano schifato tra l'ilarità della banda. Quel pomeriggio invece avevamo iniziato ad aggirarci attorno alla villa alla ricerca di qualcosa che valesse la pena. Le finestre cieche che riflettevano il bianco del cielo d'estate facevano ancora più paura che di notte. E immaginando il terrificante silenzio immobile delle grandi sale vuote, nessuno aveva nemmeno accennato all'idea di violare i segreti del palazzo. Dopo aver girato un po' lì attorno, la cosa ci stava venendo a noia e stavamo per andarcene quando Mirko, uno dei più piccoli ma indubbiamente il più grande tiratore della compagnia, aveva iniziato a raccogliere sassolini, lanciandoli con precisione verso le finestre facendone risuonare debolmente i vetri. Le cicale, il sole di metà pomeriggio e una mezza dozzina di bambini bruciati dal sole, con le ginocchia piene di croste, tutti allineati a lanciare sassolini verso le finestre di un austero e cadente palazzo di campagna. Poi la strada a poche decine di metri e in fondo, lontanissimo, il mare, confuso, in mezzo alla patina bianca dell'Afa. Sicuramente erano i primi anni 80, io penso l'82, l'83, avevo 10-12 anni. Era un gruppo di amichetti, insomma, andavamo in giro per il paese d'estate annoiandoci e quindi creando sempre un po' di qualche marachella, insomma, ecco. All'epoca eravamo veramente in una, tutti vestiti in maniera molto approssimativa, sporchi, eccetera. Kita e il Doctor erano i più grandi e i capi del gruppo. Doctor, così chiamato perché figlio di uno dei più rispettati medici dei dintorni, era uno dei più delinquenti. Raccolse un sasso un po' più grande, prese bene la mira, si inarcò come un lanciatore di baseball, scagliò la pietra e fece centro, spaccando meravigliosamente il vetro di una delle finestre. Fu la catartica liberazione di quel pomeriggio noioso e senza sbocchi. In un attimo entrammo tutti in modalità transvandalica e i vetri cominciarono a scrosciare gioiosamente per terra uno dopo l'altro con nostra grande felicità e ilarità. Le finestre erano tante e non avendo tutti la mira di Mirko e le forti braccia da adolescenti del Doctor e di Kita, la cosa stava andando avanti da qualche minuto quando, con subitaneo terrore, vedemmo passare sulla strada il grosso camion di Peppino. Peppino era un omone grosso e di poche parole, un grande lavoratore che vedevi tornare con il suo grosso camion la sera, molto tardi, quando molti altri uomini erano già davanti al bar a digerire la cena. Ci immobilizzammo tutti con le mani piene di sassi innaturalmente allungate sui fianchi. Il camion passò, noi facemmo silenzio. Lo ascoltammo allontanarsi, trattenendo il fiato, finché non sentimmo più nulla. Sorridemmo ancora un po' impauriti per lo scampato pericolo. Si poteva ricominciare il tiro al bersaglio e così facemmo in un crescendo ormai inarrestabile di risate ed esultanze, tanto che quasi non ci accorgemmo del camion di Peppino che, tornato indietro, faceva accesso nell'aia del palazzo. Le braccia si allungarono di nuovo sui fianchi e i sassi vennero lasciati cadere dalle mani che si aprivano lentamente. Il rumore del freno a mano del vecchio camion, lo sportello che si apre, e Peppino che scende lentamente dall'alta cabina. Hey! Fellas, I'm a man! You ain't no man! Man, I'm a man monk's man. Watch this! Sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? I spell him A-N. That rebel that man. No B. Oh. Why? That mean vanished boy. Full grown man. Now wait a minute. I'm a man, boy. Let me tell you something. Now look here, buddy. Cosa fate, ragazzi? In due o tre risposero: niente, mica facciamo niente. Peppino cominciò ad avvicinarsi lentamente, per terra centinaia di frammenti di vetro. Peppino, accorgendosi dei nostri occhi che roteavano alla ricerca disperata di possibili vie di fuga, iniziò a dire: «Non abbiate paura, ragazzi, non vi faccio niente!» Quando Peppino arrivò a portata, partì con un ampio ceffone. Mati si portò velocemente fuori tiro e allora Peppino doppiò con un calcio che colpì il mio amico in pieno sedere, facendogli fare un volo di qualche metro. In un baleno eravamo tutti in fuga disordinata giù per il campo, Mati compreso. Avevamo quasi tutti scampato la ritorsione violenta, ma restava un grosso angosciante problema. Avremmo dovuto cercare di evitare Peppino per il resto dell'estate e la cosa, in un paesino così piccolo, appariva quasi impossibile. Il problema non era di così poco conto, perché significava che la società operaia, il bar del paese, non sarebbe più stata un'area dove poter scorazzare sereni tra gelati, flipper e videogiochi. Per il resto dell'estate avremmo dovuto affacciarci alla porta del locale con grande circospezione, facendo marcia indietro senza dare nell'occhio nel caso in cui avessimo scorto Peppino al bancone o a uno dei tavoli a giocare a carte. Per qualche giorno tutto andò bene e il sottile fondo di angoscia per la possibile punizione stava lentamente assottigliandosi quando, in modo inaspettato, il destino decise beffardamente di presentarmi il conto. I miei genitori avevano un negozio di abbigliamento e tessuti nel paese vicino. A fine giornata, quando era vicina l'ora di chiusura, mia nonna era solita spedirmi all'osteria, come la chiamava lei, a chiamare mio babbo, che passava parte del pomeriggio a giocare a carte. Totalmente ignaro e sereno, me ne andai correndo fino al bar. Scostai la tenda antimosche e mi affacciai sulla sala in penombra, densa di fumo. In un attimo vidi mio padre seduto a un tavolo da gioco in fondo alla sala e immediatamente dopo la possente mole di Peppino, accoppiato proprio con mio babbo in un'attesissima partita di briscola. La sala era troppo rumorosa per poter semplicemente chiamare mio babbo e dileguarmi. Non c'era altra soluzione. Dovevo attraversarla a testa bassa, andando rassegnato incontro al mio destino con la sola, sottile e irreale speranza di una clemenza da parte di Peppino. da quel giorno avevamo cominciato ad evitare il bar, insomma sapevamo che eravamo in pericolo, insomma, no? Quindi che il giorno che l'avessimo rincontrato, insomma, lui insomma avrebbe sicuramente rimproverato la cosa, magari di fronte agli adulti, di fronte ai nostri genitori. E quindi io erano passati probabilmente alcuni giorni, io pensavo, forse non so, una settimana, pensavo che la cosa ormai fosse svanita, insomma, e quindi poi la sorpresa quando l'ho incontrata al bar, insomma, è stata abbastanza traumatica, diciamo. Battei con un dito sulla spalla di mio babbo. Babbo, ha detto la nonna che dobbiamo andare a casa. Va bene, arrivo, rispose mio babbo, spostando appena lo sguardo dalle carte. Guarda chi c'è! Ciao! Gliel'hai detto a tuo babbo cosa avete fatto l'altro giorno? Mio babbo non batté ciglio e continuò a guardare le carte, ma la situazione era poco meno che terrificante. Per colpa mia, mio babbo era stato messo in imbarazzo di fronte a tutto il bar. E solo questo, il peso di tutto questo, era per me già una pesantissima pena. Guardando il pavimento fui costretto a recitare una confessione in piena regola di fronte a ben 5 o 6 adulti e soprattutto a fianco di mio padre, che mi guardò solo per un istante con lo sguardo fermo e furioso che conoscevo bene. «Vada la nonna e dille che arrivo!» Né quella sera né mai subì alcuna strigliata, né tantomeno specifiche punizioni. Per quello che ricordo ci furono solo il silenzio e lo sguardo duro e sfuggente di mio padre. Uno sguardo talmente denso e potente da farmi muovere con circospezione dentro casa, evitando il più possibile di farmi notare ed interagendo il meno possibile. La punizione di mio padre non era sicuramente una cosa leggera e trascurabile. Non c'erano sanzioni vere e proprie, né tantomeno schiaffi o cose del genere. C'erano solamente la forte consapevolezza di aver sbagliato, la disapprovazione e la grande deterrenza di una potenziale sanzione sicuramente severa, ma quasi mai nemmeno minacciata esplicitamente. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Insomma, ve lo dicevo in apertura che questa storia era una storia che parlava sì di piccoli eroi, ma in senso metaforico. La puntata si intitola Piccoli Eroi e questo passaggio probabilmente è, diciamo, molto molto noto a tutti noi, o a una parte di noi che quando erano ragazzini, probabilmente almeno una volta nella vita, hanno fatto i gradassi. Pronto, ciao Michele, buongiorno. Ciao, buongiorno. In questi periodi tutte le telefonate cominciano con un come stai e come va lì dove sei, quindi non mi esimerei. Tu dove abiti? È una situazione abbastanza tesa, diciamo ci stiamo organizzando un pochino anche per lavorare da casa, insomma, quindi... Dove abiti tu, Michele? Come? Dove abiti? Abito a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini. Ah, ok, quindi ovviamente anche quella era stata una zona che era stata interessata sin da subito, ormai lo è tutta l'Italia, quindi fa poca differenza. Infatti, tu che lavoro fai? E dunque mi occupo di travel online, cioè di abbiamo un'azienda che fornisce servizi di prenotazione online di viaggi. Ok, insomma, quindi immagino non sia facile in questo periodo riguardo ai viaggi e al turismo. Gestendo le cancellazioni ormai da una settimana, 10 giorni, insomma, ecco. Le prenotazioni e le cancellazioni, volevo dire. Sì, chiaro. No, era chiarissimo. Vabbè, Michele, dico anche a te quello che mi sento di dire a tutti: passerà e sarà ancora più bello. Sì, sicuramente, dobbiamo stringere i denti e vedrai che poi insomma ripartiremo l'estate, la primavera, insomma, dai, sarà una magnifica estate. A proposito di estate, sono tutte magnifiche le estati di quando eravamo ragazzini, e il racconto che fai, a parte questo posto magnifico delle Marche, io ho davanti a me Paolo Corleone che è di Senigallia, e quindi subito mi vengono in mente, diciamo che zona, che paese, così ci ritroviamo. Dunque, il paese è Monteficcardo, ma è veramente piccolo, Monteficcardo, non so quanti possono conoscerlo. Il posto più vicino qual è? Pesaro, ok, provincia di Pesaro. Senti, tu hai mai avuto, diciamo, modo di incontrarlo, questo omone che avete, diciamo, che ha fatto un pochettino da giustiziere, Peppino? Ma sì, poi incontrarlo poi successivamente, sì, tante volte, perché ripeto, era il vicino di casa di mia nonna, insomma, quindi eravamo proprio, lo vedevamo tutti i giorni, insomma, ecco. Senti, invece oggi tu hai figli oppure, insomma, No, non ancora, però hai ancora contatti con quei ragazzi? Sì, abbastanza, con qualcuno di più, qualcuno di meno, ma un po' ci siamo persi di vista, perché sai, sono veramente, poi io mi sono trasferito qualche anno dopo, e però sempre in zona, e quindi ogni tanto li rincrocio, ma in effetti non siamo più proprio amici, diciamo, usciamo insieme, eccetera, ci rivediamo ogni tanto. Invece la figura autoritaria di tuo padre è terrificante per tutti noi, cioè quest'uomo che addirittura senza nemmeno dire niente è terrificante e semina terrore in casa per giorni e giorni. Tuo papà è ancora vivo? Sta bene ancora? Sì. Ed è ancora bene, così? Non è così, però c'è sempre un carattere abbastanza particolare, diventato più dolce passando gli anni, però ha sempre un carattere abbastanza ruvido, diciamo, ecco. Michele, io ti ringrazio molto per la storia, per la chiacchierata, e ovviamente mai come in questi giorni in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo anche a voi, grazie. A presto. Ciao Michele, ciao, grazie. Ciao Matteo, ciao. E dopo la storia di quell'estate da ragazzini, tra poco torniamo con un'altra storia di un vero piccolo supereroe. Le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. E dopo la storia di Michele, di quel gruppo di ragazzini che negli anni 80 spaccano i vetri di una villa abbandonata, che forse poi non era del tutto abbandonata, ora con la seconda storia di oggi andiamo completamente da un'altra parte. Per esattezza andiamo a San Francisco, quindi dalle Marche alla California. Siamo nel 2013 e un bambino che si chiama Miles, grazie a una fondazione filantropica, può per un giorno vestire i panni del suo supereroe preferito. In questa puntata che si intitola Piccoli Supereroi, la seconda storia è quella di Bat Kid. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Quando Miles si ammala di leucemia, non ha nemmeno 3 anni. Da pochissimo gli è appena arrivato un fratello e i suoi genitori sono colpiti in pancia da questa notizia, ma non possono accusare il colpo, dal momento che devono subito reagire. Siamo nel cuore della California, in un paesino di poche anime. E per quasi 2 anni la famiglia Scott vive in funzione delle terapie che deve seguire Miles. Miles è un bambino silenzioso e timido. Ha una faccia rotonda e gli occhi azzurri identici a quelli del padre. Un giorno un medico dice ai 2 genitori che Miles sta rispondendo bene alle cure e racconta che spesso accade che i bambini in quelle condizioni diventino dei piccoli guerrieri che non si lasciano abbattere da nulla. E Miles, a modo suo, è sempre stato un guerriero, perché ha sempre avuto un debole per i supereroi, al punto che appena può si traveste da uomo ragno o da Superman. Però il suo eroe preferito in assoluto da sempre è Batman, al punto che quando un giorno il papà di Miles gli chiede se ha un desiderio che vuole realizzare, lui risponde «Sì, vorrei diventare Batman». Negli Stati Uniti, dove sono molto molto bravi con gli effetti speciali, esiste da 35 anni una fondazione che si chiama Make-A-Wish, esprime un desiderio. È un'organizzazione che ha come obiettivo quello di realizzare i desideri di bambini malati. E quando il papà di Miles li chiama nella loro sede di San Francisco chiedendo loro una mano per realizzare il sogno di Miles, loro rispondono presente. Miles nel frattempo finisce le cure e finalmente inizia a stare bene. I suoi occhi sono sempre un po' perplessi, ma in casa dicono che è sempre stato così. L'obiettivo è quindi quello di far vivere una giornata da Batman al piccolo Miles, e quindi iniziano ad organizzarla. La responsabile di Make-A-Wish a San Francisco comincia a mettere insieme la giornata che dovrebbe svolgersi in un parco della città, e lì un attore vestito da Batman accompagnerebbe Miles a superare delle piccole prove da supereroe. Ma quando posta sul profilo Facebook della fondazione la storia di Miles, succede qualcosa di assolutamente inaspettato. One of our volunteers put into Facebook and Twitter and like wildfire, just like it exploded. Immediatamente da tutto il mondo migliaia di persone cominciano a scrivere: voglio aiutarvi, vogliamo aiutarvi, si chiedono che cosa possiamo fare per realizzare il sogno di Miles. Centinaia di volontari si presentano per dare una mano. Il proprietario di una Lamborghini nera la mette a disposizione per trasformarla in una Batmobile. Il capo della polizia di San Francisco si presta per mettere in scena la giornata di Batman, così come il sindaco della città. Anche lui vuole dare una mano in qualsiasi modo. E così, alla fine, quella che doveva essere una giornata in un parco si trasforma in un enorme set in cui tutta la città di San Francisco diventa Gotham City. So it hurts for big surprise. Get up, go and cut those ties. You're nothing to her now. 11 years all up in smoke. Was it really just a joke? Mistakes too small a word. So small, I've never seen you quite so small. So small. E così il 15 di novembre del 2013, giorno in cui è stata fissata la data, si avvicina. I genitori di Miles, che hanno il compito di tenere tutto segreto, arrivano a San Francisco in un hotel dove un attore, travestito da Batman, accoglie Miles. Mentre sullo schermo della TV della camera, il capo della polizia, in un messaggio che è stato registrato, parla direttamente a Miles, dicendogli che la città ha bisogno di lui. E così inizia la rumba. Miles si infila una tutina da Batman e, accompagnato dal Batman adulto, attraversa la città per salvare una donna che è stata legata alle rotaie del tram di San Francisco dal perfido Joker. E poi, in sequenza, salva la mascotte della squadra di baseball locale, che era stata imprigionata da Penguin, non prima però di avere sconfitto entrambi gli acerrimi nemici. Nel frattempo, sui social si raggiungono 2 miliardi di citazioni di Batkid, che è il suo nome, e di quello che sta accadendo a San Francisco. Tutti gli attori che hanno recitato Batman, tutti quanti, da Ben Affleck a George Clooney, twittano qualcosa riferito a Miles. Perfino Barack Obama, allora presidente, manda un video in cui dice: «Vai Miles, salva Gotham!» Ma la cosa più incredibile è la folla che accompagna Miles durante tutta la giornata. Migliaia di persone che partecipano al gioco, alzando cartelli in cui gli chiedono di salvarli o semplicemente urlando il suo nome. Come in una sorta di parata festosa in cui tutti si dimenticano chi sono per ricordare ad un bambino di essere Batman. La giornata finisce con il sindaco che consegna le chiavi della città a Miles, che con il suo costume un po' troppo largo e con la maschera che gli scende sempre sugli occhi, guarda stranito la folla in braccio a suo papà. E forse, proprio come racconta la mamma nel documentario che racconta la sua storia, che si intitola appunto Batkid Begins, forse lui, Miles, non ha capito esattamente tutto quello che è accaduto, ma alla fine è sembrato felice. Dal giorno dopo, Batkid è tornato ad essere Miles e a combattere una battaglia molto più reale. Ma 5 anni dopo, nel novembre del 2018, pare abbia debellato definitivamente la malattia ed è stato dichiarato cancer free. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves. deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can whisper things secrets from our American dreams baby needs some protection but I'm a kid like everyone else Se avete voglia di saperne un po' di più e soprattutto se avete voglia di commuovervi e piangere decisamente tanto, guardatevi questo film, guardatevi il documentario, si chiama Bat Kid Begins, un po' come Batman Begins, ovviamente era il titolo di quel Batman e racconta meravigliosamente la storia di Miles. La sua faccia è impagabile, guardatevelo. Noi sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Piccoli supereroi si intitola la puntata di oggi e soprattutto la storia, quella di questo ragazzino Miles che è stato chiamato Bat Kid, ci ha ispirato un'idea. Mentre ne parlavamo con Anita ci domandavamo che quanto quel concetto che viene molto utilizzato, quella parola, quel termine che viene molto utilizzato di recente, che è resilienza, si possa associare ai bambini e quanto i bambini ne abbiano di più o di meno rispetto agli adulti. E abbiamo trovato questo testo che si intitola Sotto un cielo di stelle, educazione, bambini e resilienza, pubblicato da Cortina, scritto da Marco Ius, che è docente e ricercatore di pedagogia generale e sociale. E quindi gli abbiamo chiesto, professore, ma è vero? Pronto, buongiorno professore. Buongiorno. Senta, voi nel vostro libro Sotto un cielo di stelle siete partiti da un tipo di bambini molto particolare, cioè quei bambini che sono sopravvissuti alla Shoah, ai campi di sterminio e sono diventati adulti. Che cosa avete e che cosa abbiamo imparato da quei bambini? Allora, in realtà non sono i bambini esattamente che sono sopravvissuti ai campi di sterminio, ma sono i bambini ebrei che sono sopravvissuti alla Shoah grazie al fatto di essere stati nascosti in altre famiglie. Okay. Quindi in qualche modo hanno vissuto una situazione in cui si sono allontanati dalle loro famiglie, sono stati allontanati dalle famiglie in diversi modi e hanno avuto qualcun altro che si è preso cura di loro, quindi in qualche modo sono sopravvissuti grazie al fatto di aver vissuto in altre braccia. Chiarissimo, insomma, ecco. Che è molto diverso chiaramente quindi, da quelli esatto, che no? Però ecco, questo per così per mettere l'accento da subito sul fatto che i bambini sì possono diventare resilienti non diciamo in modo autonomo ma grazie al fatto di poter avere attorno a sé degli educatori, quelli che noi poi chiamiamo tutori di resilienza che in qualche modo riescono a far leva su quelle che sono le risorse dei bambini, ad aiutarli a svilupparle proprio per poter affrontare delle situazioni di particolare svantaggio ed eventualmente anche delle situazioni di trauma. Professor Ius, ricordiamo anche per chi, insomma, la si usa spesso questa parola, ma per chi non se la ricordasse, che cosa significa resilienza? Beh, resilienza è un termine che deriva dal latino resilio, che significa rimbalzare, tornare indietro, ed è un concetto che appartiene prettamente alla fisica, no? Che riguarda la capacità di un corpo di assorbire un urto senza rompersi. E poi da diversi anni, da diversi decenni ormai è stato utilizzato anche dalle scienze umane proprio per indicare quelle storie di persone che nonostante hanno in qualche modo subito un urto dalla loro sorte, nella loro vita, sono riusciti a svilupparsi in modo positivo, buono per sé nonostante questo. E quindi adesso viene utilizzato proprio in campo delle scienze umane proprio per indicare la capacità di una persona ed eventualmente anche di sistemi sociali, di gruppi, di comunità di vivere, di svilupparsi positivamente e quindi di organizzare la propria vita in modo socialmente sempre accettabile nonostante le difficoltà che si trovano ad affrontare. Professore, per tornare poi al tema della nostra puntata, che appunto si intitola Piccoli Supereroi, la domanda principale è: ma è vero, i bambini sono più resilienti degli adulti in assoluto? Beh, allora forse quando parliamo di resilienza dobbiamo anche un po' stare attenti alle classificazioni e alle gerarchie. Nel senso, questo è uno dei rischi. Non possiamo dire che i bambini sono più resilienti in modo assoluto, ma possiamo dire che i bambini, essendo in una situazione di sviluppo, in una situazione evolutiva, se da una parte assorbono in modo particolare un evento anche difficile che si trovano ad affrontare, dall'altra parte possiamo vedere che comunque hanno anche molte risorse per poter far fronte a quella situazione, soprattutto hanno delle possibilità di cambiare di avere un impatto, no? su quello che è il loro sviluppo, grazie agli stimoli che l'ambiente esterno anche fornisce loro. Chiarissimo. Le ricerche un po' ci mostrano che tutti quanti nella nostra vita in qualche modo possiamo continuare a cambiare, a portare delle modifiche, però più si cresce, più è ampia ed è importante la forza che dobbiamo assegnare per arrivare a quel cambiamento. Professore, per i bambini sembra che possano cambiare di più con meno sforzo. Professore, in chiusura, prima di salutarlo, so che lei coordina un programma che si chiama PIPPI, che immagino sia un acronimo. Ci dice esattamente di cosa si tratta? Allora, non lo coordino direttamente, ma sono uno dei membri del gruppo scientifico. Perfetto. Il programma è coordinato dalla professoressa Paola Milani, che cito anche perché è stata la coautrice di questo lavoro sulla resilienza, e la salutiamo. A cui lei faceva riferimento prima. È un programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione e che riguarda proprio il lavoro con i bambini e le famiglie che si trovano in situazioni di vulnerabilità all'interno dei servizi sociali, che il Ministero delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali ha promosso a partire dal 2011 e che ormai in qualche modo è diffuso in tutta Italia ed è diventato anche, si è trasformato un po' nel tempo in quelle che sono diventate le linee di indirizzo nazionali sul lavoro con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità. Chiarissimo. Dottor Rius, la ringrazio moltissimo. Se volete saperne di più, Sotto un cielo di stelle, educazione, bambini e resilienza. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie mille. Buona giornata. Mamma may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre facciamo, con la nostra storia seriale. Questa storia seriale è nuova, ma è anche l'ultima del lungo viaggio all'interno dei vizi capitali che abbiamo fatto grazie a Mauro Pescio, che ce le ha raccolte. L'ultimo vizio che vi raccontiamo è quello della gola. Siamo con una donna che è diventata anoressica in tarda età, se per tarda età si intendono i 37 anni, e l'ha combattuta grazie alla cucina. Il mio amico del cuore in quegli anni era Stefano. Insieme facevamo le cose più incredibili e poi, via via, sempre un pochino di nascosto. Avevamo una complicità davvero forte. E poi mi piaceva tantissimo ballare, però lo facevo di nascosto con un mio caro amico. Facevamo coreografie, facevamo balli, abbiamo fatto danza moderna, ho fatto rock acrobatico, mi sono rotta una vertebra, per cui diciamo che da piccola di nascosto, poi da grande, 15-16 anni, vado a danza, per dire. Però se mi avessero consentito di farmi fare danza classica, come era dentro di me, fin da piccola, sarebbe stato bellissimo per me. Però ballare non è una cosa seria. Cosa vuoi fare la ballerina? Ti sposi, fai una famiglia, hai un lavoro, magari alle poste. Mia mamma per anni e anni mi ha detto: ma un bel lavoro alle poste, che significava che alle 2 saresti stata a casa, avresti potuto prenderti cura della tua famiglia. A me non piacevano i giochi da femmina, a lui non piacevano i giochi da maschio. Quindi ognuno di noi portava qualcosa e poi nella confusione totale, quando entrava mia mamma o la mamma di Stefano per vedere cosa stessimo facendo, vedevano tutta una serie di cose per cui non si capiva chi stava giocando con che cosa. E anche in questo caso questa complicità era un'ulteriore valvola di salvezza. Stefano è stato, sotto questo punto di vista, una mia valvola e io per lui. Intorno ai 15-16 anni lui mi ha confidato di essere omosessuale. Lo disse a me per la prima volta e pochi anni dopo è dovuto uscire dall'Italia perché la sua famiglia non l'accettava. Si è trasferito in Germania, ma non siamo più in contatto purtroppo. Lui ha fatto un percorso molto importante durante il quale ha deciso di cambiare sesso e ha tagliato i ponti con tutto il suo passato. Rispetto e comprendo la sua scelta di non avere più contatti, ma mi dispiace. Gli voglio ancora bene e spero che anche lui me ne voglia. Oltre a Stefano, la biblioteca continuava ad essere la mia stella polare. Distava circa 2 chilometri da casa e ci andavo quasi tutti i giorni in bicicletta. Là mi si apriva quell'altro mondo in cui io non potevo accedere, quel mondo di riviste che non potevo leggere, libri che non potevo consultare. Trovavo l'Europeo, l'Epoca, tutte riviste che per me rappresentavano un'evasione vera e propria. All'epoca, a casa mia, c'era solo il Gazzettino. Mi ricordo ancora, un tomo alto così, copertina rossa, con scritto io, virgola, omosessuale. Ed era la storia. E stavo affrontando, che poi ritorna nella mia vita tante volte, tutto quello che è l'esodo in generale. Stavo affrontando con il primo anno di scuola superiore, stavamo affrontando la Shoah. E l'insegnante mi diede questo libro da studiare. Ed era la storia di un ragazzo olandese, perché diciamo era l'idea di concentrarsi su tutti quelli che sono finiti nei campi di concentramento che non erano ebrei. Aveva fatto una scelta diversa di vita e quindi c'era questa storia incredibile. Poteva essere qualsiasi cosa questa storia, cioè per dire, c'era solo la copertina. Io mi ricordo la scena che mia madre entrò in studio, cioè dove era la mia camera, insomma, stavo studiando, e vide il libro, lesse il titolo, ti dico un tomo pesante, quindi non era un giornalino, non era un topolino, e con una forza, con una rabbia, perché mi ricordo anche il volto stravolto, l'ho preso e l'ha strappato in due. Siamo solo all'inizio di questa storia seriale, la prima settimana, domani la chiudiamo e poi potete riascoltarla il sabato alle 21.30 se volete, oppure se avete voglia in podcast. Io lo faccio, non lo faccio mai, ogni tanto mi ricordo di farlo. Saluto anche le persone che ci ascoltano in replica la mattina prestissimo all'alba delle loro giornate, anche voi ovviamente se volete mandarci una vostra storia, dico anche voi come se foste persone diverse da quelle che ci ascoltano alle 3 del pomeriggio, tant'è, mandateci una storia, avete due possibilità in questo momento. Potete mandarci una storia della vostra vita qualunque, se avete voglia di evadere, di sfuggire un pochettino dal momento che stiamo vivendo tutti quanti. Se invece volete raccontarcelo questo momento, se volete mandarci una piccola pagina di diario delle vostre giornate così diverse dal solito, l'indirizzo è sempre quello per entrambe le storie, per entrambi gli iscritti. lineedombra@radio24.it. Ora sentiamo il GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! We'll be right back.